dove si cala la parlante, bella. Una cosa grazie. No, non dici così. Si intende benissimo, me. Ma se lo devo in nuovo con Radio 1, ma sento sempre sa Robert. Radio 1 è sempre attivo, no? Prima su tutto quanto il giornale, tutta la notizia, sa. Sento se nuovo, me la sento e basta, tutta la notizia sa, la mia sicurezza nel suo weekend, no? solo verde o blu, non va problema. Bello, originalissimo, tutto fatto da me, firmato da mia. Geloso. così di dire si scena. Forse devi dire. Scegli a corso. Neo. Tra mie, non vedo fino a lì, dubito do. Ma la tu hai preguntato, però io te ne abbia accanto quelle di febbre. Allora, più o meno, là, così. esempio nella DRMS vocale, però se più pure senti chimbe le punta, ma capire che questa corrente sia costante, compreso me, ha una buona corrente pure. Un SB lo fai. Ehi, a dirangia. E poi il frutto sa di volume, comprendi, il crash, la distorsione nel commento transistorizzato. Ci sono il più bello, specialmente se giocato enarmonicamente è più bello, io non ero sempre, ognuno, ma su questo suo, preso. Ognuno può essere gusti. Prendi ti si intende di tutto quanto ci manda RMS. Di milli te vinta. Ma che? E allora fai tirare. Però naturalmente questo se soffri, questo crossover soffri di più. Deve esistere, deve esistere a lavagliare sulla sagascia, deve fare possibilmente alto rendimento. Compreso. Se c'è alto rendimento è mezzo, tutti voi. Alto rendimento, anda più bene. Compreso tutto. Vedete la mia. Metà nulla. Mi prende l'impresa service, l'impresa, so. Connettore, scuola, mi intende? Ehi, su connettore, chi non bista, mi intende? Tore. Ehi, su connettore, mi abbassi, volevo che mi trovo a fare come abbesse. No, ma deve essere quello lì, abba, lui è sceso. qui suo figlio che si è messo male. Comandante. No, è andato bene. Devo che si era stato un piccolo e ripreso, no. Adesso. Però lo muovo, è bello. Vabbè, la luce funziona. E lui non deve essere mi senti su? Aspetta, no, non mi debba cacciare il tuo capo però prossima M appena prima appena ora 1, 2, 3 sì ora 1, 2, 3 come avrebbe senso dove c'è un FM? A bise come c'è un FM? Ok, e poi che base su connettore di società da te? E lui magari più di fatto, mi intende? E lui è fino a un fatto come troppo per caso di lui ripristinare. No. Sì, sì, dai, è moderna, nessuno di questi la compra, sebbene non se non delle. Non se non delle vasette che sono sifili. Che ne fa? E dai, vi sassai, noi te. Poi c'è un amplificatore 1A, che se lo compra, da mano è scegliuto fatta a mano. Come te sono in linea massima ci ho fatto bene. Seguramente. Beh, su mesa baron forse vado di mezza euro. Su mesa baron, su mesa buchi baron, costa 12.000 euro. Mesa macha, mesa buchi, su modello è baron, barone, no? E una cosa che non è più. Bello se bisogna su Macintosh. Sinfonia. Oh, tu cagata, basta. Ma, questi cazzo non recuperi di nulla. Esci con una vita furriata. Uomo perso. Che boh. Questi cazzo non risolvi una sega. Non comprende un cazzo, tipo. Proprio un cazzo. Non devo fare niente. E che Macintosh ha? Macintosh ha nulla, no? E infatti, indossato e su, indossato qua. Se vuoi contare a compare a bidessi, cosa bisogna, come ti bisogna andare, che te ne dinare, dinare là, non interessa più. Bello. Originalissimo, fatto in vetronite ramata doppia faccia, è bellissimo. potuto avere la manna che hai mesi con Susantenna. Ancora non vende. A lui è lei benissimo. Thank you. usaccio. E ho appoggio, perché è un mio. Ah boh, ma non è su un'antenna nuova. L'antenna costata già, sabato 90 costata 60 euro. E quindi la sapete che mantiene tutto in tutto, vai, materiale tutto. No, ma è così il barattino di proprio concorrenza, no? Sto da fuori, via. Compreso. Sì, questo è un cliente uno, l'antenna, mi li fatto pagare solo l'antenna, non paga nulla, no? Vesuvi e sedere di Pinello e tornare agli alburi. Ah, mi fondate, che cosa lo vi, non le fate più. Non dico, estremamente pure buco di una ditta di questa mente, pannello solare, un attimo di maliane, quando lo trabbano con tende buco. Sapete che vetta non serve più ormai, se ne sono via le napite, cazzo. E passato la tossicodipendente, un poveraccio. A vedere in analisi. Come stare vado in Sardegna, da casa di Giorgio Musetico, 30 mesi a franco dai tempi, a quando andava la rabbia. Di nuovo in Sardegna, da poco a Giorgio Musetico, che viene da questo da me, dammi, questo che fa, questo che mi fa me, da sinistra ai due, 30 mesi a franco. No, solo di mano d'opera. E dove vendi in euro? Come? E il suo 30 mezzo. E mancante, cazzo. E infatti voi, tra una castiata. Non so per buoni, solo che mi ha dato visto, la Ianis sta a buono. E ma io però ci hanno dici di essere tutto, è macco con te, non mi sento macco, poveraccio questo. Ha fatto una fine merda, è sempre confungiato, andava sassata, è battolato, lui veramente cazzo, ignorante che non lo potevo più. Io che impazzito del buco, non comprende il lugasse te. È appanato, non so che ti si è fattendo. Come. E te cazzo, oi gorome. Oi gorome. Cosa la bella cazzo? Mai sta bene, sa conca che è la bella. Ma lascia vedere, lascia. Lasci stare, su c'è sta bene come in testa ormai, fungiati, che tu non dici come niente cazzo fai, che sui siete, boh. Campo audio. E ti cazzo audio, non dico manco se lo comprendo di telarnarle. Già curato. E tanto dai. Sempre vorriato essere. Con isso? Non lo vedo mai intendere. Ah, che ti scemo, te. Che ti scemo. Il nome è Macco. Sono bambino, nada, non so che puttana, nada. Non comprende nulla, non ha decoriato nulla, non ha idea, c'è che tu fa gai. Compreso di nuovo, mi cantenna per il gudere, gai, compreso, e c'è i team, diciamo, sa bidere. Ma pianta, noi siamo anche terze, compreso, i suoi, adesso non te ne gai via, che è macco. lui in prete non aveva, come se credi mia mi danno una. Ah, non ho detto mollato, la prima che era riuscito come so poi. Hanno mollato. Sono i pigiamenti, te lo sono alzato da letto, sono qui, sicuro. Thank you. caso, invitami a bar. Questo sotto il visore di 13, dove chi cannò? Tu a bar tanto bisogna di un palazzo, intanto il coraggio su, sono tutto appiato, signora, tre tanto bisogna. No, così cosa appiccato se non l'ha torrato? Ma allora sono tutto fuso, no? E su, proprio un furto, no? Cioè, si è capito da questo sattero e non l'ha torrato più. No, è una merda. La saveglia, una combinata di ogni colore, cazzo. Entra questa domo, no? Quando bergaiana sopra la grossa attività si chiede, si sopra che si chiede a pirata adesso che entra dritto me, no? Si chiede a su, si chiede se è una bestia che vuole si chiede, guarda ma chi 30, 20 euro no? Cazzo a su che mi cazzo a da chi Sky ha cambiato la codifica in NDS si è stata attaccata su cazzo. E quello che mi fa cane sa conca. E questo che ho brugliato completamente, mai non basta, mai non vai. Forza. Ma che non comprendete un gasso. Non comprendete un gasso, vi già dico. No. Dice signorante, meda però, mi meda, meda, meda. Non è vero che lo sarò da già amato. Oddio. Ma se mi metto sotto a me la cosa, cosa? Te ne sono aziende. Primo, allora, adesso l'hanno sono andato, perché l'ha pigliato il televisore, intende? Su tipo, su fese di questo, se andate andando con su qua, era andato un attimo, poi mi dà sul televisore la rovina, tanto pubblico si vede questo rinto, poi se lo sanno per l'attorrato, andando con questa femmina, mi lo conto a posto, ovviamente sul televisore immediatamente travagliato, futuro mi vanno meno a mettere lavato, comunque funziona bene come in seguito, e contemporaneamente bevo quella radio antica, ma la camera giusta non chiusa radio, e devo pensare io, voti non le ha toccata nessuno. Come ti avevo girato? Poi di questa radio che mi perdo, non parla di autobox, ma a cazzo! Questa sta fanno la mano di un autobox, ma buh! Perché non mi ha raccontato di scena, ha parlato bassa, bassa, buh, a questo esempio, infatti ha fatto un casino. Insomma non parla di autobox, ho fatto, me la so appogata, me la so appogata, si entra in una tazzita e non mi sa femmina, a bisetto. Poi vedevo, dopo fatti due. Allora poi io sono tornato di Romildo, che la sapono, che la paio con me con Romildo, e che la paio tornando con la femmina. Però se la trovo la mano per la sua. In nome con la femmina, Funi. La mano per la sua, la sa trovo, la sa trovo, che la sa posto dentro con la radio. Da bene, la sa pogata, la sa posto dentro nella zitta. E poi se me la sa andata con Romildo, poi se si è messa a ritirare, no? Non fu già sua. Toccava andare a guardare, ragazzi. Sì. Poi sta andando molto lungo, ok. Ehi, sarà di Romildo. Ah, non è ben aiata. Intelligente isso, eh? Cioè, se auto box ancora vanno bene, secondo te. Come te, quando entra Iana, se cioè, loro vuoi appena più là, o se superano questa radio, fase di fatica, se pubblica la difficile. Compreso, tutto un casino, questa roba così, babbonata, tutto acciato. Troncato il suo connessore variabile per questa sua induzione, no? Non fu di capacità di questa sua baffanculo, grazie. magnetica, vuol dire questo so, io questi cilindri tu devi rizzano, va circolare, tutto in un caso fumo. Che aveva? Tu girai lì, andai da su questo, e io e su questo vicino della sintonia ho tutto in terra. La sentire non la sentire che non manopola, non si è venuto girato in buio. E mi hanno fatto solo questa cosa, no? Ha bisettato il videoregistratore, DVD, lavastoviglie che non ha più trovato. Ma una ragazza mi ha piaciuto che si cucina componibile, non l'ha trovato, no? Non ha cucina componibile, si è capito della lavastoviglie, non l'ha trovato. Ehi, se il trappo di grano da vero ne fa carità vera se l'aria nuova, tu che balla è. Dove sono due vidai? Non mi rifiuto, vai, adesso una capa che so che io mi già sbaglio subito. E noi, guardate che bene, non abbiamo anche gli anni. Comprei tutto, con cade cecce. C'è sempre cambiando componente, cambiando processore, con la faia, ponia, faia, da compreso. Sa prima che ha toccato, una delle prime che ha toccato in vita, tanto, sa e vale che lei che la giugliata nel Franco Emma, se non dicia di quella di Cubesso. Cosa, no? Disinare da. Bah. Varecchina. Su questo piazza Umberto, lo dico questo, che la lea da una Franco Emma su televisione. Poi, a un certo punto, posso vedere che c'è una Schneiser, il nuovo vicino a Carrella, e io ho fatto un altro casino. Prima volta, prima volta ho fatto un casino, poi è diventato famoso e non trovai più sul televisore. E voi non le darai a proprio. Ma non darai via da... Poi che adesso ho conosciuto a noi. No, una che più non abbiamo fatto, ragazzi, una che non abbiamo ordinato. Basta 30 mila, basta 30 euro di antenna. Basta 30 euro di antenna, io mi metto su euro, so. E si è un canale in più. Ah, babà, un attimo, perfetto, perfetto. Beh, sei a te, sei imparato, guarda, ciao, ciao, ciao. Di più. E sempre che ha fatto. No, non fu di Piazza Marconi, no? Fu di Piazza Simula. E boh, un fudi. Simula tanto, ne avevo prima edicola. Figura, ehi, ma è capitato giù, no? Prima che ho potuto l'antenna non si dia nulla, poi che trovo la pone, l'antenna è tutto tutto. Che ti va a sentire? No, no, no, non ho fatto una cagata, l'hai appoggiato, a dipetto. E non è sa. Sempre meglio con questa antenna salto guadagno con questo 40 dB che si chi soppale poi comincia a mandicare giamala ma che temporanea una chiesa sono trovato in Firenze una cazzo una merda ma sempre che hai guasto sono trasuendo il guasto non è che il guasto ignorante cazzo che non lo di più si assomiglia con mille pronto come ente, un ugasso, un becchino, ignorantissimo, ignorantissimo, questo l'hai scritto sul blog nostro, e fa bene le altre. E le fai da fare, adesso le che le posso sono un po' in conca prima. E poi vecchia malese pure. Tutti fisso, Gesù c'è bravo, Gesù, c'è un grande questa merda. Solamente fatto danno e poi in più che non l'ha fatto, non l'ha lasciato vagare, compreso tutti i US. Poi lascia vedere. Una volta. E la sabella, il ragionamento lungo, è comunque non siamo più corrente, boh. Il motore di pazzo ha da un metodo di trazione di fischio, boh. Thank you. sim, sottorsana, sopperso, desottor, sobbaiana, sopperso, desobbaier, e gaime. Quando calienta il sole, un occhettino d'amore per Maria Gelsa du, Maria Fette canterò. E quando si andate per l'ombretta, di Beretta non c'è più, e poi scendi più in basso, Maria de Cucù. Che non lo proseguire. Vabbè, non ci sentiamo già. Sentissimo. Camiene a casa. Ciao ciao. Sì, mancante. El i vampidos. E a te la dare la vesicura a conca. A te la dare la vesicura a sacabina. E non intendiamo da. Se non si va ancora più tardi, ciao ciao. Avvisalo, che se deve avere la modifica a top, compreso. E io ne siamo che un fine attuanzamo non per due dottorati o canguro, ragazzi, coro me. Però tu si capisce, lei mi ha fatto un casino, li faccia l'autoradio, televisione, lava stufi, lavatrice, ragazzi, ragazzi, non li faccia. E noi intendiamo, dai, ciao, ciao.